cosa pensa di questo re, dell'uomo accanto a te, che ti riporta a casa senza una scusa, senza un regalo. Piccola donna, che cosa sai delle promesse di una città, di questa nuova realtà? Tu non hai capito, ma capire spesso è un male. Tu non sai dire no, non sai usare le parole. Provincia dolce, speranza di vita. E quella donna, che cosa hai fatto? Perché non hai ancora scelto? Perché guardi fuori dal finestrino il traffico di un'autostrada, il gioco di un bambino, un mondo perso nella nebbia. Perché mi dico